dicevano green. No hashish, no amfetamine. Su questi beat con la pile e con le pinze andiamo giù pesi come in Iraq i Marines. Se vuoi la musica italiana allora ascolta Mina. Me il rap mi fa peggio dell'anfetamina. Mina, Mina anti-uomo, tuono in duomo come Diego Abatta Antuono. Entro con rima, il ritornello qui non c'è. Come in Tibet il vetro, in un pozzo il privé. In copertina metti me, io metto te. Almeno ci scambiamo i ruoli come a letto in tre. Tanta roba come Cartier. Basta droga come la Bertè. Faccio il rap per te, per me, per me. So butto rime in freestyle come stronzi in eccesso. No ragazzi, guarda che tra i cantanti nuovi ci sono robe da pazzi. Molti talenti voi li sottovalutate. Tipo chi, fai un esempio, Malika sti cazzi. Faccio una festa, chiamate paparazzi, chiamate Cecchetto. La gente parla e la dice che etologia. Dice che è il gossip, inciampo sul palco tipo Vasco Rossi. Io voglio tutto come la peregina. Oggi che anche la medicina è made in Cina. Odio il Natale come film di Vanzina. Come il fuoco e la benzina o l'enzima.